Gentili ascoltatrici e ascoltatori, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Oggi parliamo dello Spirito di Dio che viene nominato nell'Antico Testamento. Un argomento del genere è più che mai opportuno, perché di lui se ne parla molto poco, al punto che qualcuno lo ha definito il grande dimenticato. Altri, invece, rammaricati di quanto poco si studi la persona dello Spirito per timore di fanatismo, lo vedono una dottrina negletta. In effetti, delle tre persone che sussistono nello stesso Dio, i cristiani sono propensi a parlare molto della persona del Padre, sono pronti a parlare del Figlio, ma pochissimo dello Spirito di Dio. Eppure, se vi è una persona della Trinità che è sconosciuta, è proprio quella del Padre. Mentre di Gesù Cristo se ne parla in tutta la parola di Dio e dello Spirito se ne accenna fin dal secondo versetto della Bibbia, abbiamo pochissimi elementi nella parola di Dio che ci rivelano la persona del Padre. E questo è più che conforme a quanto disse Gesù, e cioè che nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Come è possibile conoscere il Padre se prima non si conosce il Figlio? Così, uno studio in merito alla persona dello Spirito di Dio può aiutarci a comprendere maggiormente la pluripersonalità della divinità degli ebrei e dei cristiani. Poiché i cristiani condividono il simbolo atanasiano, e cioè vi è una persona del Padre, un'altra del Figlio e un'altra dello Spirito Santo, ma la divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è una, la gloria uguale, la maestà coeterna, studiare la persona dello Spirito di Dio equivale dunque anche conoscere le altre due persone della Trinità. Proprio perché lo Spirito di Dio o dell'Elohim non è una forza impersonale o una potenza derivante da Dio, ma una persona, prenderemo atto come egli abbia una personalità, cioè possiede intelligenza, volontà e autorità. Prima di entrare in merito al nostro tema, facciamo un riassunto di ciò che abbiamo esaminato nelle precedenti 10 trasmissioni, perché ogni riflessione è legata strettamente a ciò che abbiamo detto precedentemente. Abbiamo compreso che la divinità degli ebrei e dei cristiani ha diversi nomi: Adonai, Elohim e Yahweh. Mentre il nome Yahweh è un nome proprio, i nomi Elohim e Adonai, nomi plurali, e cioè Di e Signori, fanno comprendere che in seno alla Deità vi è una pluralità, una molteplicità numerica. Ma il nome non è sufficiente per chiarire quanta pluralità vi sia in seno alla Divinità. L'interrogativo non è da poco, e noi dobbiamo essere aperti a qualsiasi possibilità numerica, senza partire da presupposti. L'Antico Testamento, oltre a manifestare l'esistenza di una pluralità di persone nella divinità, rivela la presenza dello spirito dell'Elohim o di Yahweh, con quasi 400 citazioni. Gli studiosi di ebraico e di aramaico fanno notare che il termine spirito, ruah, è femminile. Questo particolare dovrebbe essere tenuto presente, perché nella nostra mente siamo condizionati dai termini maschili e femminili. Quando i cristiani affermano che in seno alla Trinità vi sia il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, hanno in mente tre persone di carattere maschile, anche se i cristiani credono che la loro divinità non abbia propriamente una sessualità umana. Ma se i cristiani pensano che in seno alla divinità vi sia una certa femminilità, Ciò non solo è conforme a quello che sta scritto nella parola di Dio, ma anche ad un principio divino. Mi rendo conto che queste riflessioni potrebbero far sussultare qualcuno, ma non possiamo negare l'evidenza. Nella nostra mente la divinità è sempre espressa al maschile. Se osserviamo i quadri che rappresentano il Creatore o Dio il Padre, raffigurano sempre un essere maschile, mai femminile. Se il Padre fosse asessuato, non avesse apparenze maschili, perché non ritrarlo in una sembianza che non fosse né maschile e né femminile? O perché non ritrarlo al femminile? Il concetto che tutta la deità dei cristiani e degli ebrei sia solo maschile è stato ed è approvato tuttora, coscientemente oppure inconscientemente. Parliamo ora dello spirito dell'Elohim. Che la divinità di Israele dei cristiani, cioè Yahweh, sia una persona è una verità immediatamente percepibile. Ma che nell'Elohim, cioè in Dio, vi sia lo spirito, non è così automatico. Ascoltiamo ora la lettura del secondo versetto che troviamo nel primo libro della Bibbia. La terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Se il primo versetto della Genesi presenta l'Elohim, cioè una divinità pluripersonale, il secondo versetto presenta il suo Spirito. Il fatto che nell'Elohim ci sia uno Spirito viene confermato anche da Mosè. Ecco cosa troviamo scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 35. Mosè disse ai figli di Israele: «Vedete, l'Eterno ha chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Hur, della tribù di Giuda, e lo ha ripieno dello Spirito di Dio, di sapienza, di intelligenza e di conoscenza e di ogni abilità». Mosè parla dell'Eterno e dello Spirito dell'Elohim. Nel testo citato ci si riferisce allo Spirito di Dio come a qualcosa di fronte all'Eterno. Infatti Mosè non dice «lo ha riempito del suo Spirito». Ovviamente ciò non significa che lo Spirito di Dio non sia lo Spirito dell'Eterno, ma il testo si esprime in un modo che induce a pensare che vi sia una certa differenza. Più di 20 volte la scrittura associa lo spirito della Deità al nome che contraddistingue la pluripersonalità della divinità, cioè Elohim, utilizzando espressioni spirito di Dio. Istintivamente noi pensiamo allo spirito come qualcosa di vago, di etereo, o lo contrapponiamo a ciò che è materiale. Lo spirito dell'Elohim non è una forza impersonale della divinità, una sostanza immateriale o invisibile, ma è una persona dell'Elohim, una persona della divinità espressa al plurale. Ma se continuiamo la ricerca, troviamo che lo spirito di Dio non è una prerogativa dell'Elohim. Lo spirito dell'Antico Testamento è anche lo spirito di Yahweh. Ascoltiamo la lettura del libro della Genesi, ciò che dice Yahweh. E l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni saranno quindi 120 anni. E ancora nel libro dei Giudici: ma lo spirito dell'Eterno investì Gedeone che suonò la tromba. Questo ultimo testo dimostra che gli uomini di Dio furono guidati e investiti dallo spirito di Yahweh. Lo spirito dell'Antico Testamento che ha guidato, fortificato, parlato, ispirato gli uomini che credevano in Yahweh appartiene dunque sia all'Elohim e sia a Yahweh. Questo spirito, profeticamente, sarebbe stato quello che avrebbe sostenuto il Messia, la persona di Gesù. Ascoltiamo la lettura del libro di Isaia al capitolo 11. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza. E ancora al capitolo 61. Lo spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto. Con il suo spirito, Yahweh porta dunque avanti i suoi piani. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 30, abbiamo una chiara dichiarazione in cui l'Eterno afferma l'esistenza del suo spirito divino e che questo gli appartiene. Ascoltiamo. Guai ai figli ribelli, dice l'Eterno, che fanno progetti che non vengono da me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato. Questi particolari, cari ascoltatori, sono importanti perché ci preparano ad accettare con la venuta e la rivelazione di Gesù che in seno alla divinità dei cristiani sussistono tre persone. Se molti credenti sono imbarazzati nello spiegare la Trinità, è molto probabilmente dato dal fatto che non hanno approfondito la persona di Yahweh e del suo spirito. Come l'uomo è stato creato ad immagine di Dio, perché egli non è guidato esclusivamente da impulsi naturali come gli animali, ma è stato fornito di intelligenza, di sensibilità e volontà, cioè è una persona morale, così la scrittura ci presenta lo spirito dell'Elohim non come una forza impersonale, un'invisibile energia, ma come una persona avente le stesse caratteristiche di Yahweh, la divinità degli ebrei e dei cristiani. Queste conclusioni ci portano a pensare che difficilmente Israele credesse in una divinità unipersonale o avesse così una teologia monoteistica assoluta. Solo nel periodo susseguente alla diaspora babilonese, dopo la predicazione dei profeti, si arriverà a quel monoteismo assoluto che conosciamo anche oggi e che contraddistingue i giudei dagli altri popoli pagani e politeisti. Molto probabilmente gli israeliti credevano in una divinità espressa al plurale e che l'espressione di questa pluralità fosse in Yahweh. Attraverso Yahweh, l'ebreo poteva percepire in forma sintetica la pluripersonalità di Dio nella sua unità essenziale. Ma ciò che sorprende dalla nostra ricerca è che Yahweh non è una divinità vaga e impersonale, ma talmente presente e reale da vivere in stretto contatto con l'uomo. Questo aspetto è unico nella storia delle religioni, unico come del resto è il cristianesimo, l'unica religione che ha le fondamenta della sua fede in un'altra religione, cioè quella ebraica. Chi troverà difficile comprendere la fede degli ebrei, troverà difficile anche comprendere la fede dei cristiani. Chi non ha compreso chi è Yahweh e che Yahweh è un corpo è limitato nella comprensione della fede dei cristiani. È arrivato il momento, cari ascoltatori, che non è più possibile possedere una fede vaga in Cristo, una fede casomai esclusivamente neotestamentaria, perché, come è stato ripetutamente detto, il Nuovo Testamento è comprensibile solo se si è compreso il Vecchio. Accingiamoci allora a continuare a studiare l'Antico Testamento e questo faremo, Dio volendo. Nella prossima trasmissione prenderemo in esame l'antropomorfismo di Yahweh. È reale o simbolico? Non ci rimane che essere presenti all'appuntamento. Ciao a tutti.